Ci sono arrivate molte mail, molti messaggi e vi ringraziamo per l'interesse con cui state dimostrando di seguire il nostro percorso tra Kafka e la metamorfosi. E tra i diversi spunti che i messaggi ci hanno offerto c'è quello di una interpretazione del risveglio di Gregor che è data dallo psichiatra Massimo Fagioli nel suo Bambino, donna e trasformazione dell'uomo. Qui Fagioli, ribaltando in qualche modo i termini, a partire dalla frase di Kafka che il risveglio di Gregor non era un sogno, come scrive appunto Kafka, puntualizza che la verità, se possiamo usare questo termine, si trova proprio nell'inconscio e non nella coscienza. Fagioli dice: «La comparsa della veglia e della coscienza fa considerare, vedere, stimare tutto ciò che è accaduto nel sonno e nell'inconscio come immondo e lo rappresenta con l'immagine di un insetto, enorme, cioè non naturale come nella realtà, e quindi immondo. L'inconscio e i sogni sono una cosa immonda e l'insetto immondo è chi dorme e sogna. Interpretazione dell'idea nascosta nel racconto. E potrebbe non essere vera. Quanto tutti hanno pensato, sempre, ovvero che l'irruzione dell'inconscio nella coscienza è una mostruosità, è falso. L'idea latente nel racconto, idea geniale, è esattamente l'opposto. È la coscienza che compare con la veglia, che ci trasforma in enormi insetti immondi. È la coscienza che percepisce e vede l'immagine umana deformata in insetto immondo. La coscienza che compare alla veglia, che per avere la percezione esatta delle cose e il pensiero lucido, dimentica, nega, abbandona nel nulla il pensiero inconscio del sonno. E ringraziamo la nostra ascoltatrice Cecilia Iannaco, germanista e psicologa, che ci ha messo a conoscenza di questa pagina, di questa interpretazione di Massimo Fagioli.